Ben detto. Ogni movimento improvviso potrebbe spaventarlo o attirarlo. Dovete rendervi invisibili al suo olfatto. Vicino a voi crescono foglie resinose, capaci di assorbire gli odori. Ascoltate bene. Ogni foglia è in grado di assorbire 5 unità odorose. Sapendo che ogni grado della vostra temperatura corporea libera 2 unità odorose percepibili dall'orso e che la vostra temperatura è di 35 gradi, quante foglie dovrà usare ciascuno di voi per mascherare completamente il proprio odore?